La grassofobia non è una vera paura, no? È il sentimento di disgusto, odio e stigmatizzazione che viene in questa società promosso nei confronti dei corpi grassi. Questo tema appunto verrà affrontato anche nel programma del festival, sia con un film che con la presentazione di un libro, giusto? Sì, sempre Fair Cake ha da sempre un'attenzione a tanti temi trascurati altrove e il percorso di rappresentazione della grassezza più o meno queer non inizia quest'anno. Di questo diamo merito al festival. Per quanto riguarda le cose promosse quest'anno, sono tutte e due meravigliose, e non lo dico perché ci sarei a presentarle, giuro. Il primo è un documentario che si intitola My Fat Friend ed è la prima italiana. La regia è di una regista indipendente americana che si chiama Jeannie Finlay. Segue per più di 6 anni le vicende attivistiche e private dell'attivista per l'accettazione dei corpi grassi Aubrey Gordon. Aubrey Gordon fa un passaggio in questi 6 anni da attivista sconosciuta che teneva un blog, Your Fat Friend, in cui non aveva il coraggio di scrivere il suo nome per paura dell'odio online, a un momento in cui effettivamente le fanno addirittura doxing, quando mettono online i tuoi indirizzi di casa e i tuoi dati personali, a poi scrivere un libro che entra nella classifica del New York Times, che si intitola What We Don't Talk About When We Talk About Fat. Da allora lei è partita, è una columnist proprio per il New York Times, ha scritto altri libri e ha un podcast fantastico insieme a un suo amico giornalista super gay che si chiama Maintaining Phase, dove fanno debunking sulle cose più deliranti legate alla salute americana. Alcune parlano di grassezza, altre no. Gli statunitensi sono in media molto creduloni, ecco, mettiamola così. È molto divertente, la barriera della lingua è che in inglese bisogna comprendere l'inglese. Questo documentario ha fatto la prima mondiale nel 2023 a Tribeca, poi ha girato vari festival ed è stato messo per la fruizione su una piattaforma indipendente americana per un mesetto lo scorso anno. Noi affrontiamo Aubrey Gordon non solo dal punto di vista di attivismo, ma anche nel rapporto con la sua famiglia, perché i suoi genitori, per esempio, sono molto poco comprensivi, non riescono a capire il suo attivismo e i discorsi di decostruzione che fa. Poi alla fine le cose migliorano un po', però ci fa vedere come cambiare i propri paradigmi mentali, come spostarli, farli slittare sia comunque faticoso, mettendoci di mezzo gli affetti. Certo. Invece la presentazione del libro vedrà presente me, Chiara Lascura, che ha fatto l'illustrazione del libro, al secolo Chiara Meloni, che è una cofondatrice insieme a Mara Belli del progetto per la liberazione grassa che si chiama Belle di Faccia. Hanno scritto anche un libro omonimo uscito per Mondadori qualche anno fa e che ha pubblicato il suo primo graphic novel proprio l'anno scorso. Invece l'autrice, che purtroppo non può essere presente, è Eva Cabras e scrive di cinema. Nella vita si occupa proprio a livello professionale di analisi e critica dei media e ha fatto una co-curatela del testo film pop anni 90 uscito sempre per Becco Giallo. Probabilmente non sto facendo una buona presentazione perché non ho ancora detto il titolo di questo saggio, che è Infedeli alla linea. Eva Cabras gestisce anche un profilo Instagram molto interessante che si intitola Watch Me Giggle, dove ci dà dei flash sulla rappresentazione grassa, sulla grassofobia nei media, e lei ha fatto una disamina molto colta, molto preparata, con un'ottima bibliografia, ma anche in modo molto accessibile a livello di linguaggio e testo, della rappresentazione della grassezza nelle serie televisive. Però oltre a essere un testo competente dal punto di vista della critica con uno sguardo queer, ci fa entrare molti dati, molte riflessioni sulla grassofobia e sulla lotta per l'accettazione dei corpi grassi in generale. Divertente da leggere, le illustrazioni sono molto belle e il titolo chiaramente, che è un gioco di parole con i CCCP, è un una dichiarazione programmatica infedeli alla linea del corpo mainstream, il cui uomo vitruviano è chiaramente un maschio bianco, giovane, cisgenere, eterosessuale, abile, mentre invece non siamo fedeli a questo tipo di narrazione che vogliamo cambiare e decostruire.